e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo subito dalla borsa, perché dopo una settimana quantomeno altalenante la scorsa, oggi l'inizio è di quelli tutti in recupero, più 2% in media i listini europei, Parigi più 1,90, Francoforte più 2, Londra più 1,90, l'America sta dando una mano con un rialzo dell'1,3% e Milano non fa eccezione, più 2% il FTSE MIB. E tra l'altro segnaliamo che andare particolarmente bene sono i bancari oggi, Unicredit quasi il 5% di rialzo a 2,50 euro per azione, Popolare di Milano più 3,5, 5,34 euro, UbiBanca più 2,2, come Mediaset e il Monte dei Paschi, bene anche Intesa San Paolo più 1,80% e Banco Popolare più 1,7%. Tra chi sale o cresce di più segnaliamo anche Saipem più 3,3 come Tenaris e il 2,3% di Lottomatica. Il mercato però oggi è soprattutto concentrato sul rapporto di cambio euro-dollaro. Non è infatti un mistero, perché ve l'hanno già raccontato i nostri GR, l'euro ha superato quota 1,50 oggi, fino a un massimo di 1,5003. Siamo in sostanza al livello più alto dallo scorso 26 ottobre, ma ai livelli più alti da quando vi fu, in generale, se si lascia stare lo scorso 26 ottobre, da quando è scoppiata questa crisi nella parte finanziaria, quindi da un anno a questa parte che l'euro non toccava quota 1,50. Così come siamo a nuovi record, che vengono anche in questo caso di volta in volta aggiornati, sull'oro. L'oro infatti questa mattina ha superato i 1107 dollari l'oncia sui mercati internazionali, questo vuol dire soprattutto a New York e in Asia. Anche qui avremo una breve parentesi sull'andamento del prezzo dell'oro. Infine il petrolio, che ha aperto in rialzo a New York a 78,50 dollari al barile. Vedo già i messaggi al 349-238-6666, volete sapere chi invece non guadagna? In pregilo il calo più pesante, meno 4%, Fondiaria meno 2,90%, Italcementi meno 2,1%, Buzzi Unice meno 1,4%. I temi che affronteremo: la riforma sanitaria di Barack Obama, riforma che costa 1.100 miliardi in 10 anni, alcuni hanno fatto notare che è una cifra inferiore a quanto speso o garantito in un anno dal governo americano per evitare che la crisi finanziaria diventasse uno tsunami, un Armageddon, come dice il ministro Tremonti, per cui una cifra imponente ma che scompare rispetto a quanto speso in un anno. E poi parleremo del rapporto McKinsey sulle società a valore, e quindi le indicazioni arrivate oggi da un rapporto che ha visto intervistare 1700 manager, 720 società a livello mondiale, per vedere dove possono collocarsi le maggiori prospettive di crescita, ma anche che cosa fare per agganciare quella lenta ripresa che sta arrivando. Infine torneremo sulla banda larga, ossia vi leggeremo anche alcune agenzie, il ministro Scajola ha intenzione di chiedere che vengano sbloccati questi soldi bloccati dal CIP, gli 800 milioni di euro che dovevano servire alla banda larga, e ne parleremo con chi ha la delega in Confindustria proprio sul tema della banda larga, della messa diciamo in rete del paese, oltre che essere presidente di Telecom Italia, mi riferisco a Gabriele Galateri di Genola. 349-238-6666 per gli sms, e rapidamente le altre notizie in breve. Si diceva del record dell'oro, 1107 dollari. Attenzione, perché a spingere le quotazioni dell'oro è che è salito da inizio 2009 del 25%, quindi è salito più delle borse a questo punto. Milano in questo momento da inizio anno è a un più 16%, ma dicevo, a spingere il valore dell'oro è soprattutto la richiesta di oro come investimento, quindi sono contratti anche per investimento, un più 46% la richiesta solo nel secondo trimestre del 2009. È invece calato, e non poco, l'uso di oro per motivi industriali e per la gioielleria, meno 21% la richiesta di oro per motivi industriali, meno 22%, quindi identica per gioielleria. Questo come conseguenza anche delle difficoltà dell'economia mondiale, però appunto ampiamente compensati questi cali da una forte richiesta di oro come investimento. Vabbè, poi c'è anche la Banca Centrale Indiana che a fine ottobre ha acquistato, come già abbiamo detto, 200 tonnellate di oro spendendo 6 miliardi e 700 milioni di dollari, però insomma c'è un movimento complessivo non solo dovuto alla Banca Centrale Indiana. Venendo invece ai prezzi, ma questa volta di un mercato a cui siamo molto vicini, quello ortofrutticolo in Italia, ebbene non si sta placando il crollo dei prezzi alla produzione della frutta e dei cereali. Praticamente rispetto a un anno fa ormai siamo a un meno 20-22% in media, con cali del 35-40% per il grano duro, lo segnala oggi la Confederazione Italiana Agricoltori, e che prevede comunque una media per fine anno del crollo dei prezzi all'origine, per cui non quelli che poi paghiamo noi, tra il 15 e il 18%. È tornato sui temi della cosiddetta strategia di uscita dalla crisi, Exit Strategy, il numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, il quale ha detto occorre che i paesi che hanno adottato misure non convenzionali adottino una exit strategy graduale ma anche tempestiva. Siamo riusciti con gli interventi dei governi, delle banche centrali a evitare la depressione e abbiamo arrestato la caduta libera dell'economia e della finanza. Resta ancora molto lavoro e molto duro da fare, è la disoccupazione a pesare soprattutto più di ogni altra variabile sulla fiducia dei consumatori. Ancora si diceva delle dichiarazioni del ministro Scajola, che è tornato. Scajola in questo momento sta accompagnando la missione di oltre 360 imprenditori, 210 imprese, 22 associazioni, 9 gruppi bancari. La missione, dicevo, organizzata da Confindustria, ICE e ABI in Brasile da oggi fino al 13 novembre, Brasile e Cile. Ma al di là di questo, ieri è tornato sul tema della banda larga, lo ricordo, la banda larga è quel progetto che va sotto il nome dei ministri Brunetta e del sottosegretario Romani, che prevede di, entro 2012, di arrivare a connettere tutto il paese o con la banda larga, quindi alta velocità su internet, o quantomeno con una connessione non veloce ma almeno una connessione. Dovrebbe ridurre questo progetto il cosiddetto digital divide, cioè la differenza enorme che c'è tra le aree del paese in cui viaggi a 20 megabit e quelle in cui non viaggi proprio, perché sei ancora con il doppino in rame, diciamo, hai velocità basse, bassissime. Ebbene, gli 800 milioni previsti per il finanziamento sono stati congelati in attesa che finisca la crisi. Ne abbiamo già parlato, ne riparleremo. Il ministro Scajola ha fatto notare che con il progetto banda larga si sarebbero creati 50.000 posti di lavoro, si sarebbero aperti 33.000 cantieri, con un impatto positivo sul PIL pari a lo 0,2%, per cui è tornato a difendere l'ipotesi che vengano sbloccati questi soldi. E vi arriveremo, vedo già che c'è chi scrive al 349-238-6666. Partiamo dal primo tema, non italiano ma internazionale, ossia è riuscito Barack Obama, poi vedremo cosa succederà al Senato, ma insomma è riuscito a fare passare alla Camera con un voto storico la prima riforma della sanità pubblica americana. ...220 voti a favore, 215 contrari, il no di 39 deputati della maggioranza democratica e il sì di un solo repubblicano, quindi travagliata comunque la stesura e la votazione su questo progetto di riforma del sistema sanitario americano, approvato nella notte tra sabato e domenica dopo lunghissimi negoziati. La riforma passa al Senato, la legge eventualmente modificata dovrà tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Comunque ci sarà infine la firma presidenziale con una cerimonia alla Casa Bianca. 1.100 miliardi di dollari questo costerà la riforma del sistema sanitario americano in 10 anni. E ripeto, se guardiamo quello che è stato speso per salvare l'economia americana dai disastri che ha creato la finanza creativa e facile e derivata di questi anni, non è una cifra enorme. Certo, sono più di 110 milioni di dollari ogni anno per garantire, in sostanza, poi ci sono tanti altri elementi dentro questa riforma, ma per garantire la copertura sanitaria a quei 36 milioni di americani che non sono ancora assicurati, che non ce l'hanno garantita, come ci racconta questa scheda. Se andrà in porto, verrà ricordata come la più grande riforma sanitaria dal 1965, quando venne avviato il programma Medicare per gli anziani e Medicaid per i poveri. Ambiziosi gli obiettivi del progetto. L'estensione della copertura sanitaria a 36 milioni di americani oggi sprovvisti, per arrivare entro 10 anni a coprire il 96% della popolazione. La spesa prevista è di 1.100 miliardi di dollari in 10 anni, finanziati da tagli nel programma Medicare per 400 miliardi di dollari e una nuova tassa sul reddito del 5,4% per chi guadagna oltre 500 mila dollari l'anno. Per garantire concorrenza e libera scelta, verrà istituito entro il 2013 un ente di assicurazione pubblico da mettere in competizione con le assicurazioni private. Si tratta della contestata Public Option, l'opzione pubblica voluta dal governo per ridurre le elevate tariffe sanitarie. Regole nuove sono inoltre contenute nel testo. L'obbligo da parte dei datori di lavoro di dare copertura assicurativa sanitaria ai dipendenti, il divieto per le compagnie di assicurazione di negare a clienti la copertura sulla base delle condizioni mediche preesistenti o di alzare significativamente il prezzo delle polizze dei più anziani. Eh sì, perché c'è anche questo, quando si ha a che fare con le assicurazioni in America, uno inizia a contestare il tipo di vita che hai fatto, oppure l'età, ma insomma, è un obiettivo molto ambizioso, 1.100 miliardi di dollari, c'è già il corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Pratero, in collegamento. Prima di tutto però vi faccio ascoltare uno dei passaggi con cui Barack Obama ha commentato questo primo voto clamoroso e comunque storico alla Camera, dicendosi sicuro che l'approvazione al Senato arriverà in tempi brevi. È un voto storico quello della Camera in merito alla riforma sanitaria. Per anni ci è stato detto che la riforma non era possibile, ma la Camera ha approvato il contrario. La riforma sanitaria accessibile a tutti porterà stabilità e sicurezza per quegli americani che già hanno copertura sanitaria e soluzioni accessibili e di qualità per chi invece ne è sprovvisto. Inoltre contribuirà a far diminuire i costi sanitari per famiglie e imprese. La copertura dei costi della riforma è già stata individuata e ridurrà il nostro deficit pubblico. Sono consapevole che è stato un voto coraggioso da parte di molti membri del Congresso. Sono grato a loro per aver compiuto questo passo in avanti. Ancora più importanti sono i milioni di americani le cui vite cambieranno una volta che sarà completata la riforma. Sono momenti come questo che ci ricordano perché siamo qui, per rispondere alle sfide che per troppo tempo sono state rimandate, per rendere migliori le vite degli americani e più forte la nazione. Ciò che è successo alla Camera ci ha portato vicino come mai prima d'ora alla riforma sanitaria nel nostro paese. Ora è compito del Senato portare la riforma alla linea del traguardo e sono assolutamente fiducioso che ciò accadrà. E molti hanno fatto notare come a questo accordo si sia giunti anche con concessioni della Nancy Pelosi in tema di aborto, cioè concessioni agli antiabortisti, perché è stato approvato a sorpresa un emendamento che limita il diritto di aborto terapeutico e permette alla Camera dei Rappresentanti di dare un primo via libera in questo modo all'accordo di riforma sanitaria. In sostanza occorre, se confermata nella stesura finale, proibirà la copertura dell'aborto terapeutico a tutti i contratti assicurativi sanitari sovvenzionati pubblicamente. In sostanza, se una donna vorrà essere coperta dall'eventuale aborto, dovrà chiedere un'assicurazione a parte. Comunque, Mario Pratero, questo è chiaro che è un compromesso per l'ala più conservatrice dei democratici e per arrivare a un accordo. Io ho una domanda un po' diversa per te. il successo di Barack Obama con la riforma sanitaria va di pari passo con l'insuccesso, o perlomeno le difficoltà, le esitazioni che sta avendo Barack Obama nel riformare la finanza? Abbiamo visto Timothy Geithner al G20, il suo ministro del tesoro, bloccare la proposta di Gordon Brown di pene più severe, di controlli. Cioè, sembra che sia molto in grado di avanzare su quelli che sono i suoi cavalli di battaglia, riforma sanitaria, e molto ancora in impasse sulla riforma del sistema finanziario americano che ha generato questa crisi. Mario. Ma dunque, guarda, no, credo che lui stia procedendo di pari passo. Gli interessi della riforma finanziaria in America non sono necessariamente gli stessi di quelli che ci sono in Europa. E dunque in questo senso possono esserci delle visioni divergenti dal punto di vista di come si dovrà muovere questa riforma. Però sicuramente Barack Obama la porterà avanti, c'è anche una grossa battaglia, non dimentichiamolo, in Senato, in Congresso. Abbiamo alcuni senatori che stanno avanzando le loro proposte, che sono diverse e divergenti da quelle che invece vuole il Tesoro. Il Tesoro, ad esempio, vorrebbe tutto nelle mani della Federal Reserve, mentre invece alcuni di questi senatori, come Christopher Dodd del Connecticut, vorrebbero una nuova istituzione completamente diversa. Dunque la situazione è una situazione in divenire, ma la cosa importante è il passaggio, secondo me, in questo momento di questa riforma sanitaria. E restiamo allora sulla riforma sanitaria. Si è detto 1.100 miliardi, che però spalmati in 10 anni sono molto molto meno di quanto l'America ha speso solo per mettere in sicurezza il sistema finanziario. La tua sensazione è che comunque, al di là degli accordi, dei, chiamiamoli così, patteggiamenti all'interno della Camera, vedi il caso della copertura assicurativa sull'aborto, ma che nell'opinione pubblica americana stia passando di più l'idea di che è necessaria una riforma sanitaria, oppure viene messa dall'alto dalla classe politica americana a partire dall'inquilino della Casa Bianca? No, dunque io credo che ci sia una sensazione fra gli americani che qualche cosa va fatto. Ti dirò, gli stessi repubblicani vogliono una riforma sanitaria, tutti si rendono conto che in questo modo non si può andare avanti, che non si può continuare ad avere 40-45 milioni di americani senza assicurazione, non si può avere un sistema monco. Ovviamente le differenze stanno sul come, sul metodo. La proposta repubblicana, per esempio, è molto più contenuta, prevede un minore ruolo dello Stato, prevede un maggiore ruolo delle assicurazioni, però i democratici hanno vinto le elezioni, Barack Obama ha vinto le elezioni anche sulla base di un mandato proprio per portare avanti la riforma sanitaria, e direi che la sfida storica è davanti a lui e davanti al Congresso. Ricordiamolo, questa è una riforma, direi, che si porta addirittura più avanti di quella che propose Bill Clinton nel 1993 e che poi costò una pesante sconfitta dei democratici, soprattutto in Congresso. Ecco, c'è di nuovo una partita simile, abbiamo visto nelle recenti elezioni come i democratici non abbiano fatto bene, qualcuno si domanda se non sia stato anche per causa di questa riforma sanitaria che è discussa, ci sono violenti attacchi nelle reti televisive, nei comizi, nei dibattiti, nei giornali. Ecco, ci sono le elezioni di mandato l'anno prossimo, quindi c'è una scommessa in corso, però nel momento in cui Barack Obama esce con una vittoria e quindi riesce ad affermare la sua leadership, io credo che ci siano delle scadenze per gennaio o febbraio perché tutto questo processo si chiuda. Ecco, nel momento in cui riesce ad uscire a testa alta da questo processo, beh, la sua leadership riuscirà comunque a mobilitare la base del Partito Democratico, che sarà galvanizzato dal fatto di aver comunque gettato un'altra pietra miliare. Un'ultima domanda per te, Mario Platero. Sempre in tema di riforma sanitaria, tu già dicevi che insomma sta prendendo piede anche nell'opinione pubblica più scettica la necessità di questa riforma. Può essere che la crisi finanziaria in America sia fatta sentire anche soprattutto sulle famiglie che hanno contratto un mutuo, stia portando più in evidenza la necessità di un welfare, di un sistema, diciamo, di garanzie sociali un po' più robusto? Cioè che se fossimo stati in un periodo di grande espansione economica, probabilmente vi sarebbe stata meno sensibilità su questa riforma? Sì, probabilmente meno, certamente. La crisi finanziaria, la recessione, la disoccupazione che è enorme, siamo già al 10,2%, decine di milioni di disoccupati, 16-18 milioni di disoccupati in America, è chiaro che richiedono una maggiore assistenza sociale, dunque questo ha sicuramente aiutato. Però l'idea di una riforma era comunque nell'aria, perché le assicurazioni private stanno caricando delle polizze estremamente elevate, non ci sono delle condizioni spesso positive, e quindi una riforma riforma comunque andava fatta. Io credo che Barack Obama va a rispondere in questa riforma soprattutto anche alle carenze che erano incluse nelle polizze, carenze di cui tu parlavi prima, ad esempio se c'era una condizione preesistente non veniva trattata e quindi addirittura la polizza poteva essere così annullata arbitrariamente. Quindi è una sensazione condivisa, certamente la crisi ha aiutato. Dei bancari ma anche di Tenaris, più 3,80, di Saipem più 3,4, Autogrill più 2,5, Generali più 2,3 e Parmalat più 2,1, bene anche l'Eni più 1,80% come Bulgari ed Enel e le Campari Ansaldo STS, anche l'automatica guadagna l'1,8%, chiudiamo tra rialzi con Mediolanum più 1,6%, CIR più 1,7 come Mediaset. Telecom ha guadagnato l'1,5, volete sapere di Fiat l'1,2% di rialzo. Fronte opposto, Impregilo meno 4,2, Fondiare meno 2,90, Italcementi meno 1,6, Buzzi Unice meno 1,1% e non c'è altro tra i titoli più grossi. Tra i titoli in assoluto, le peggiori sono le Camfin meno 6,2, poi Arena meno 5,7, Danone meno 4,7 e l'Esnia meno 3,80. Il migliore in assoluto EMS più 25,4, l'Espresso più 10,2, Seat più 7,5, Banca Profilo più 6,90, RCS Media Group più 6,3%. E poi appunto Unicredit, come sempre il commento con Radio Cori sulle 24 ore, Corrado Poggi, buonasera. Buonasera. Unicredit. Unicredit sì, ha guidato la corsa dei bancari, è quella che ha guadagnato più di tutti, più o meno, come dicevi, il 5%. Il comparto bancario è quello che ha maggiormente salutato la decisione del G20 finanziario in Scozia, che si è tenuto nel weekend, di confermare che le manovre di stimolo all'economia rimarranno in vigore ancora per diverso tempo. Quindi sicuramente il settore bancario è quello che beneficia maggiormente in questo momento della ripresa delle attività. Ed è stato quindi quello che è più cresciuto su questa notizia. Dopo le decisioni prese dai G20, vogliono sapere gli ascoltatori perché EMS, che è un titolo molto sottile, ha fatto il botto più 25,4%. C'è qualche motivo? No, non è che bisogna trovarlo per forza il motivo, però se c'è, bene. Andiamo avanti con i titoli. Sul fronte opposto invece, ed è unico diciamo tra il settore finanziario, Fondiere Assai ha perso il 2,80%. Sì, Fondiere Assai ha riportato oggi i conti per primi 9 mesi dell'anno e c'è stata la brutta notizia del fatto che l'utile netto è passato da 385 milioni un anno fa a 0,8, quindi praticamente azzerato. E quindi chiaramente questo è un risultato dovuto all'andamento tecnico, cioè all'aumento degli sborsi per danni ma anche a svalutazioni su strumenti finanziari. Sì, Marchionni ha detto che comunque ha detto che a fine d'anno sarà un fine d'anno di soddisfazioni per i soci di Fondiere Assai, però l'utile appunto è azzerato, scende praticamente a 800 milioni di euro, per cui rispetto ai 800 mila euro rispetto ai 385 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso, dei primi 9 mesi del 2008. Andiamo avanti invece con i titoli, perché se abbiamo visto invece che Allianz ha più che raddoppiato l'utile nel terzo trimestre a un miliardo e 320 milioni di euro, anche sul fronte non bancario assicurativo abbiamo visto oggi due andamenti divergenti. Da un lato Impregilo perde 4,22% e perde anche Italcementi meno 1,60, Buzzi Unice meno 1,1%. Dall'altro titoli comunque legati al ciclo come Tenaris guadagnano il 3,84%. Sì, esatto. Allora, Impregilo ha pagato i risultati trimestrali che ha riportato alla fine settimana scorsa, sono stati giudicati abbastanza deboli da alcune banche. Ha preoccupato il fatto che sia un po' peggiorata la posizione debitoria e che siano state tagliate le stime di margine operativo lordo. Detto questo, rimane anche la notizia di venerdì che il CIPE aveva dato il via libera all'inizio della fase di progettazione per il ponte sullo Stretto di Messina, quindi è un titolo che ha delle prospettive buone in questo momento, ha pagato questo peggioramento dei conti. Andiamo invece di Tenaris. Sì. È un gruppo che ha riportato una contrazione significativa degli utili e anche dei ricavi nel trimestre precedente, però piace alle banche il posizionamento del gruppo nel settore dei servizi per compagnie petrolifere e il fatto che abbia una disponibilità di cassa molto solida che potrebbe permettere di compiere delle operazioni di allargamento, magari tramite acquisizioni o comunque crescita interna. Ancora sui titoli, Parmalat, abbiamo visto indicazioni positive sulla chiusura d'anno, in certa Finmeccanica, Telecom e Fiat. Sì, Fiat, c'è stata questa notizia giunta sul fil di lana della chiusura di borsa, che l'agenzia delle entrate sarebbe pronta ad agire sui crediti imposta vantati da Fiat. 500 milioni di euro. Esatto, 500 milioni di euro, si aspetta che l'azienda Torino invii all'amministrazione fiscale l'interpello formale a cui poi rispondere con la risoluzione, quindi sembrerebbe una cosa fattibile in tempi ragionevoli. Diciamo di Parmalat, Parmalat ha riportato la trimestrale venerdì in cui ha evidenziato un aumento del margine operativo lordo del 20%, del 20,6% e ha anche alzato le stime, il target per il 2009 di utili, di EBITDA. Su queste notizie alcune banche hanno alzato il target price, quindi sì, ecco, l'ultimo titolo che ti avevo chiesto era Telecom, perché oggi è arrivato un abbassamento del target price, il mitico target price da parte di UBS, per quello che può valere, ma insomma la cosa strana è che strana perché ogni tanto questi vengono anche recepiti dal mercato, invece il titolo ha guadagnato. Il titolo sì, alla fine ha guadagnato, è stato abbastanza altalenante credo durante la giornata, però alla fine si è guadagnato l'1,52%, la stessa UBS è vero che ha tagliato il target price da 1,25 a 1,15 euro, però ha confermato anche il giudizio di neutral sul titolo. Ha evidenziato il gruppo svizzero una debolezza sul fronte dei ricavi da parte di TIM. Anche se altrettanto messo in evidenza il fatto che si attendono maggiori risparmi sul fronte dei costi, quindi un fattore positivo. Ancora, tra i minori, oltre a EMS di cui abbiamo dato notizia, ci sono anche altri titoli, Banca Profilo più 7%. Sì, Banca Profilo ha fatto un solido rialzo perché è stato pienamente sottoscritto l'aumento di capitale da 29,7 milioni, quindi un atto di fiducia da parte degli investitori nel gruppo. Oggi McKinsey, che lo ricordo è uno dei principali gruppi al mondo come consulenza manageriale alle imprese, ha 94 sedi in 52 paesi e 9.000 consulenti, fa appunto consulenza aziendale e manageriale, ha presentato il rapporto 2010-2015 verso una nuova normalità, agire ora per competere con successo, quindi i temi della crescita e della competitività. Siamo in collegamento con l'ingegnere Vittorio Terzi, che è responsabile di McKinsey per tutta l'area del Mediterraneo. Buonasera ingegnere. Buonasera. Allora, il titolo dice in sostanza: si va verso una nuova normalità come ciclo economico, per fortuna. Sarà possibile, prima domanda, crescere a tassi sostenuti anche in questo nuovo equilibrio economico e finanziario mondiale? La nostra convinzione è che anche in un periodo di economia moderata ci sono opportunità di crescita a tassi sostenuti. Per vedere queste opportunità, tuttavia, bisogna uscire dalle discussioni attuali che sono tutte focalizzate e concentrate sulla macroeconomia. Le opportunità di crescita a tassi sostenuti si individuano se si scende in dettaglio, se si usa quella che noi chiamiamo la granularità di analisi per entrare in dettaglio in settori, segmenti, mercati, e sicuramente in ogni mercato, in ogni settore anche maturo si individuano delle aree in cui invece ci si accorge che ci sono delle opportunità di crescita sostenutissime, e questo lo dimostra il passato e lo dice il futuro quando vediamo che ci sono dei settori mondiali che cresceranno a tassi più elevati del PIL mondiale e anche settori italiani a tassi più sostenuti del PIL mondiale. Allora, ingegner Terzi, per uscire appunto dalla semplice analisi macroeconomica così congiunturale andando sui singoli settori, voi come previsione di crescita quali settori avete visto avere un valore aggiunto, prevedete avere un valore aggiunto maggiore, e invece quali dovrebbero essere più in difficoltà? È difficile Probabilmente non è possibile neanche fare una previsione per settore, però se facciamo un passo avanti e prendiamo per esempio un fenomeno, un cambiamento mondiale che è in corso, l'invecchiamento, e proviamo a vedere dove genererà queste opportunità di tassi a crescita sostenuti, qui ci viene in aiuto alcune proiezioni da noi fatte, settori come i giochi, lo sport, ma anche le moto e l'auto potranno avere un impatto negativo dall'invecchiamento della popolazione. Ci sono altri settori però che potranno ricevere un beneficio consistente, a partire dal settore sanitario, al settore dell'immobiliare, al settore dell'alimentare, avranno delle spinte di domanda nuove che se ricercate possono dare l'opportunità alle imprese di cogliere un momento di crescita considerevole. Questo è per esempio l'impatto che ha l'invecchiamento della popolazione su alcuni settori. Voi avete stilato però anche una classifica della crescita mondiale del valore aggiunto nominale, quindi al netto, al lordo dell'inflazione, per settore economico. Sì. E lì si vede chiaramente che insomma esistono dei settori in cui tutto sommato, fatto diciamo 100 l'indice di media, vanno nettamente sopra questa media: sanità, farmaceutico, aeronautica, comunicazioni, bevande, utilities, l'alimentare, il commercio all'ingrosso, i servizi e anche la carta plastica. Nella parte bassa invece vediamo chimica, arredamento, materie prime, manifatturiero, petrolio, editoria, assicurazione, elettronica, immobiliare, costruzioni, tutti con tassi di crescita del valore aggiunto inferiori alla media. Questo vuol dire, secondo lei, che come attività di consulenza vada consigliato a un imprenditore, comunque a un manager, di muoversi verso questi settori? Sì, per quelle imprese che operano già vicino a quei settori e che hanno le capacità da poter valorizzare in quei settori. Però questo non esclude che nei settori che in media ci si attende crescano meno del PIL mondiale, non esclude che all'interno di quei settori, se si scende a livello di sottosegmento o anche di area geografica o di mercato, non ci siano delle opportunità di crescita. Ogni caso va guardato uno per uno. Quindi le indicazioni che lei ha dato sono utilissime, però io invito tutti quanti a entrare ancora più nel dettaglio prima di prendere delle decisioni che poi sono importanti. Sì, chiaramente noi dobbiamo restare generici perché questo ci consente il mezzo, altrimenti poi se fornissimo informazioni troppo dettagliate vi ruberemo il lavoro. E quindi attenzione. Andiamo avanti invece, perché voi avete interpellato 1700 manager con il vostro sondaggio. Sì. Ecco, posto che alcuni settori chiaramente avranno un valore aggiunto nominale più alto, altri più basso rispetto alla media, ma che comunque anche in quelli più bassi ci saranno opportunità di crescita. Che cosa emerge dalle indicazioni che vi hanno dato questi 1700 manager? Perché se ho ben capito, la vostra così raccomandazione è: attenzione, il valore della crescita futura e il rilancio della crescita va impostato adesso, anche se magari la situazione è ancora molto stagnante e ancora difficile. Prego. Sono due i messaggi che ci danno questi manager. Il primo è che secondo loro la ripresa economica, che possiamo considerare già in atto, però sarà lunga e graduale. Il secondo messaggio è che loro al momento hanno in cima alle loro priorità il taglio dei costi e il recupero di flessibilità, solo al terzo posto l'innovazione di prodotto. Beh, noi diciamo che la prudenza di preservare i conti economici, di rinviare investimenti, può sicuramente avere dei benefici nel breve termine, però senza la crescita si possono subire dei costi dolorosi nel lungo termine. E infatti la crescita, dalle nostre analisi, assicura longevità e assicura capacità di creazione di valore. In una valutazione che abbiamo fatto su 60 imprese italiane negli ultimi 10 anni, vediamo che quelli che noi abbiamo definito i campioni della crescita, che sono quelle imprese di queste 60, che sono riuscite a crescere in maniera più sostenuta rispetto ai loro settori, hanno avuto una longevità 4 volte superiore e una creazione di valore 3 volte superiore alle aziende invece che crescevano in modo normale e in modo inferiore. Per questo dico, va bene la prudenza, ma attenzione a mantenere un corretto equilibrio con lo sguardo al futuro sin da adesso. Ecco, interessante anche quando voi andate a scomporre i motivi, i motori di questa crescita economica di queste imprese, ma non solo, perché voi avete preso un campione in questo caso di 720 aziende a livello mondiale. È interessante perché la crescita non avviene sempre solo con una grande operazione finanziaria. Quali sono i motori veri di queste e comuni denominatori di queste 720 aziende a livello mondiale quando si va a vedere che cos'è che le ha fatte crescere? Sono tre i motori. Il primo motore è il cosiddetto momentum, cioè la capacità di un'azienda di crescere ai ritmi a cui crescono i settori di appartenenza. Questo motore dipende dalle scelte di portafoglio, dipende cioè dai settori in cui ci si posiziona. Le scelte di posizionamento sono difficili da ricalibrare, se ricalibrate possono dare un ritorno molto alto, nel nostro caso fino al 65% della crescita. Secondo motore è l'outperformance, cioè la capacità di un'impresa di saper battere i concorrenti spostando quote di mercato verso se stessi. Questo risultato si ottiene avendo una excellent execution, una esecuzione eccellente. Non basta invece, per poter spostare quote di mercato bisogna spiazzare i concorrenti cambiando le regole del gioco, innovando le regole del gioco. E il terzo motore è il motore delle acquisizioni e disinvestimenti, che mette a esecuzione le strategie di crescita e che è al meglio utilizzato quando viene usato non solo per l'aumento dimensionale, ma anche per sfruttare gli altri motori, in particolare per entrare in nuovi mercati. E a questo proposito voi fate degli esempi in chi ha saputo scegliere il momento, cioè il momento, cioè saper crescere come i concorrenti, possibilmente anche anticipare quella che è la dinamica del settore a cui si appartiene. C'è il caso della spagnola Iberdrola, che è diventata uno dei leader mondiali nel settore eolico e ha saputo investire già nel 2001 prima di altri operatori. Ancora, in chi invece ha saputo fare quella che voi chiamate l'outperformance, quindi riuscire a strappare concorrenti, clienti ad altri concorrenti, i casi sono appunto della Red Bull negli energy drink, la Swatch negli orologi e anche l'Apple per quello che riguarda lo smartphone, l'iPhone o iTouch. Ecco, detto questo, c'è un ultimo capitolo che vorrei affrontare con lei, riguarda invece il ruolo della finanza, perché in questo momento è un po' come parlare dell'untore, però sappiamo che senza finanza non c'è olio nel motore per un'impresa, per cui nessuno vuole negare l'importanza del finanziamento e anche di diverse fonti di finanziamento, non solo quelle bancarie. Che cosa vuol dire però che per tornare a crescere bisognerà riequilibrare il rapporto fra debito e capitale azionario? Il punto è che il debito sta aumentando di costo, come tutte le imprese stanno notando, e diventa più scarso per effetto del deleveraging delle banche. Le imprese italiane, come molte imprese europee, sono sbilanciate tra le fonti che utilizzano per finanziare i propri progetti, quindi i progetti di crescita, sul debito, e quindi dovranno ripensare un po' la struttura delle loro fonti e dovranno ridurre il debito e dovranno aumentare la quota di capitale. Adesso il punto vero è che ci sono vari modi per aumentare la quota di capitale, oltre una normale ricapitalizzazione che gli azionisti possono apportare alla propria azienda. Devono sperimentare modalità alternative, quale la ricerca di un migliore utilizzo del capitale all'interno dell'azienda stessa, delle ricapitalizzazioni in kind e soprattutto la ricerca dell'interesse di nuovi investitori istituzionati, magari considerati marginali, ma che marginali non sono. Penso ai private equity, penso ai fondi sovrani, non soltanto internazionali ma anche domestici. Grazie a Vittorio Terzi, che è il responsabile McKinsey per l'area Mediterraneo. Grazie a lei, arrivederla. Allora, vedo alcuni ascoltatori che dicono e scrivono: la maggior parte degli italiani non penso abbia problemi di internet, ma quello di arrivare alla fine del mese. Io non la metterei proprio così, perché le due cose non hanno tempistiche uguali. Un conto sono le iniziative prese a sostegno dei consumi, quindi anche iniziative fiscali, un conto sono i progetti che un paese finanzia per stare almeno al passo con gli altri paesi europei. La banda larga in Italia, cioè la possibilità di far viaggiare le informazioni internet a una velocità, di almeno 20 megabit, è presente in Italia solo nel 19% della popolazione, cioè raggiunge solo un italiano su 5. Un'impresa su 3 non è connessa e il dato sale al 43% per le microimprese. La media europea è del 24%, ma in Danimarca si arriva quasi al 40%, in Olanda al 35%, i nostri concorrenti più diretti, la Germania e la Francia, ci danno quasi 10 punti di differenza, ci siamo al 28% in Germania e in Francia, così come in Gran Bretagna, di popolazione connessa, con la banda larga chiaramente. E allora vediamo che cosa è successo. 800 milioni di euro congelati finché non finisce la crisi. In realtà la, non dico polemica, ma insomma, la necessità di ripensare a questo blocco l'ha sollevata lo stesso ministro Claudio Scajola. Poi affrontiamo il tema con chi ha la delega in Confindustria allo sviluppo della banda larga, nonché presidente del gruppo Telecom Italia, Gabriele Galatea di Genova. Il piano di connessione Romani Brunetta prevede sul digital divide, non prevede la banda larga in tutto il paese, prevede che chi non verrà raggiunto dalla banda larga abbia almeno una connessione di 2 megabit, che non è moltissimo, ma è sempre meglio di quella con cui si viaggia, diciamo, in via telefono, che è intorno, se non ricordo male, ai 56 kilobyte, per cui insomma stiamo parlando di una proporzione di 20 volte, anzi in questo caso 40 volte più veloce nei 2 megabit e 400 volte più veloce nel caso dei 20 megabit. Comunque, al presidente di Telecom Italia, nonché delegato di Confindustria allo sviluppo della banda larga, Gabriele Galatea di Genova, chiediamo di continuare a parlare di questo argomento. Buonasera, presidente. Buonasera. Dunque, polemica tra il ministro Scajola, polemico comunque richiesta del ministro Scajola al governo, accelerare sull'occupazione e soprattutto la banda larga, 800 milioni di investimenti da parte del governo che darebbero lavoro, secondo quanto dichiarato Scajola, a 50.000 addetti e consentirebbero di aprire 33.000 cantieri con un impatto positivo sul PIL pari a 0,2 punti percentuali. Sappiamo, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, che dal CIP è uscito un blocco di questo stanziamento di 800 milioni fino a che la crisi non sarà finita, e anche lì non si capisce bene cosa voglia dire. Presidente Galatea, allora è chiaro che il governo poi ha tutti i diritti e la legittimità per decidere dove stornare le risorse in un periodo sicuramente non facile. Fa abbastanza impressione però vedere quanti occupati e cantieri verrebbero aperti da un'infrastruttura che molti italiani hanno difficoltà a considerare ancora come una vera infrastruttura. Non c'è dubbio, ma guardi, il tema purtroppo è molto semplice, molto chiaro, e credo che sia effettivamente molto utile fare qualche considerazione proprio elementare. Innanzitutto, la banda larga, come sappiamo, è quello strumento di internet che consente a velocità diverse di viaggiare ai dati e alla voce, appunto, sulla rete internet, e quindi permettere a tutto il sistema economico di usufruire di servizi avanzati, moderni, che sono poi quelli che portano evidentemente competitività al sistema industriale, che portano qualità della vita ai cittadini, ma magari ci torniamo sopra. Effettivamente, diciamo, perché è così importante la banda larga? Perché è una realtà, un investimento che è proprio una specie di antidoto anticrisi. Banda larga vuol dire, in sostanza, buona parte, fare degli scavi, aprire delle canaline in cui poi si mette la famosa fibra ottica, che è uno degli strumenti che consentono appunto poi a internet di viaggiare in maniera più veloce di quanto non possa fare oggi su rame. Quindi quando lei dice che il ministro Scajola parla di occupazione, parla di cantieri, si parla proprio di queste cose che si possono attivare immediatamente e quindi producono un effetto immediato sull'attività economica. Insomma, gli studi che sono stati fatti in diversi paesi, compreso il nostro, danno un'indicazione molto chiara: per ogni euro che si investe in banda larga se ne producono circa 2 di prodotto interno lordo, quindi ha un effetto immediato di stimolo dell'economia. Su quello che ha detto prima faccio un commento: il CIP ha bloccato. Io mi auguro che in realtà, come è stato dichiarato dal sottosegretario Letta, sia solo un ritardo, perché come ho appena spiegato è un qualcosa di estremamente importante per l'attività economica e di assolutamente essenziale per la competitività futura del sistema italiano. Tra l'altro, noi veniamo da una penetrazione della banda larga, quindi dell'internet veloce, per fare capire a tutti, poi già ricordavamo prima cosa significhi la definizione, in sostanza quando tu hai una velocità oltre i 20 megabit, ma dicevo abbiamo una penetrazione che è ben inferiore alla media europea, non parliamo poi dei paesi del nord Europa, 18% contro il 24,5% della media europea. E su questo però noi notiamo anche una difficoltà, forse anche in alcuni ascoltatori, nell'opinione pubblica, a capire perché sia utile per la competitività di un paese. Voglio dire, è chiaro che internet veloce è più comodo per l'utente privato, che può scaricare notizie, film e informazioni in maniera più veloce, avere accessi più veloci, ma perché in paesi come la Finlandia, la Norvegia e anche la Germania, la Francia si ritiene che sia un elemento fondamentale per competere quando le imprese competono? Ma guardi, io su quello che lei mi chiede farei due considerazioni diverse. Intanto sul discorso della copertura della banda larga nel paese. Ci sono due aspetti molto importanti. Si parla dei fondi necessari appunto per sviluppare l'infrastruttura, dell'impatto che questo sviluppo dell'infrastruttura può avere sul sistema economico, ma diciamo chiaramente che l'infrastruttura è solo una parte del problema. In Italia al momento attuale è vero che l'infrastruttura non copre tutto il paese, ma diciamo che quella che c'è già è sottoutilizzata, cioè noi oggi abbiamo in Italia comunque un utilizzo inferiore alla metà di quello che siamo già disponibili. Quindi, a parte il problema dell'infrastruttura, che è importante soprattutto per il futuro, lo spiegherò tra un attimo, c'è un problema cosiddetto di alfabetizzazione anche del paese, sia a livello dei cittadini che a livello delle imprese, alfabetizzazione digitale, cioè di rendere possibile ai cittadini e alle imprese, soprattutto medio-piccole, l'utilizzo di questa infrastruttura attraverso un acculturamento sui servizi e sulle applicazioni che sono rese possibili da questa banda larga. E allora quali sono questi servizi e queste applicazioni? Purtroppo credo che sia facile pensare soltanto a qualcosa molto vicino al divertimento, al piacere, appunto, come diceva lei, di scaricare film e così via. In realtà il tema è molto più ampio, molto più vasto e trasversale a tutto il sistema economico e porta benefici a tutti, ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione. Perché? Perché per esempio per i cittadini, che cosa vuol dire banda larga, cioè capacità di trasmettere velocemente su internet determinati servizi? Pensiamo per esempio al discorso della telemedicina. La telemedicina è un sistema per il quale si può collegare un ospedale o comunque un centro medico attraverso la banda larga con al limite le case degli utenti, pensiamo per esempio alle persone anziane, e di monitorare direttamente, senza bisogno che si trasferiscano in casa dell'utente medici e altri apparati, di monitorare tutta una serie di fenomeni che interessano l'anziano, a partire da determinati parametri medici, al fatto stesso di possibili fenomeni che si producono in casa, cadute e così via. Pensiamo al cosiddetto e-learning, cioè all'apprendimento via internet, dove si può appunto permettere anche a centri lontani e scollegati con i grandi centri urbani di avere delle scuole che possono quindi essere dotate di strumenti di informazione e di formazione molto avanzati. Pensiamo alla cosiddetta IPTV, cioè la TV via internet, che avrà il grande vantaggio di essere, rispetto anche alla televisione digitale attuale, di essere interattiva, cioè di consentire non solo di ricevere i programmi ma anche di trasmettere informazioni, richieste, e quindi tutto uno sviluppo estremamente importante. Per le imprese è ancora più evidente il vantaggio della banda larga e di questi servizi. Per esempio parliamo di e-commerce, cioè di tutta la parte di commercio via internet elettronico. Pensiamo alle teleconferenze che potrebbero permettere di risparmiare infiniti viaggi, pensiamo all'infomobilità, ma poi non posso dimenticare tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione. Insomma, adesso si sta lavorando sulla cosiddetta posta elettronica certificata, la fattura elettronica, il fascicolo sanitario elettronico, tutti fatti che permetterebbero di semplificare enormemente queste attività della pubblica amministrazione con enormi risparmi per il sistema generale. Pensi che solo il fatto di tradurre la ricetta, diciamo, del medico da cartacea ad elettronica, con tutto quello che evidentemente ne consegue, dato il numero delle ricette che vengono messe ogni anno nel paese, potrebbe portare a un risparmio di circa 1 miliardo di euro. Si calcola che per tutta la pubblica amministrazione l'intervento e l'utilizzo della banda larga dei servizi ad essa connessi potrebbe portare a risparmi oltre i 3 miliardi all'anno di euro. Quindi capisce che quando vediamo il discorso di utilizzare 800 milioni per chiudere il cosiddetto digital divide, cioè per permettere di portare banda larga a una velocità seppure minima ma sufficiente a tutto il paese, insomma, il confronto tra investimento e risultati mi sembra evidente. Ecco, tra l'altro lei ricordava i vari risparmi possibili nella pubblica amministrazione, ma non solo, io aggiungo c'è anche un impatto ecologico, perché comunque è sempre carta che non viene stampata, ma su questo è chiaro che poi c'è il rischio per le imprese italiane che l'elemento competitivo pesi anche a sfavore delle imprese italiane nei confronti dei concorrenti esteri, perché se tu sei un'azienda tedesca, francese o finlandese, norvegese, hai già questi accessi, è chiaro che hai delle competenze in più. Ultima domanda per lei però, perché ce la pongono anche gli ascoltatori al 349-238-6666. Qual è per in questa espansione e investimento il ruolo del privato? Perché voglio dire, è chiaro che lo Stato si fa carico di eliminare il digital divide, quindi la differenza tra aree del paese coperte e aree non coperte, a maggior ragione quando le aree non coperte sono scarsamente abitate, difficilmente raggiungibili. Esatto, però esatto. E questo, diciamo, è compito dello Stato in generale. Altra cosa è dire i servizi alle imprese. Allora si potrebbe pensare che il privato nel frattempo possa continuare ad andare avanti nell'offrire un servizio di internet veloce laddove vede chiaramente un interesse economico e un ritorno economico sull'investimento. Non c'è dubbio, ma difatti i piani degli operatori, particolarmente quello di Telecom Italia, evidentemente vanno avanti e porteranno certamente a introdurre l'internet veloce. Noi abbiamo un piano in Telecom Italia, come abbiamo più volte dichiarato, che porta a dei risultati dell'ordine del 20 mega, diciamo, per circa il 72% della popolazione entro il 2011, addirittura oltre 50 mega al 65% della popolazione entro il 2016, investendo circa 6 miliardi di euro. Quindi non c'è dubbio che il privato fa questo, e la Confindustria in particolare, vorrei ricordare, visto che lei ha giustamente citato anche il mio ruolo in Confindustria, ha attivato un'iniziativa specifica su questo tema, non solo producendo un documento che identifica lo stato dell'arte e le policy che abbiamo chiesto al governo per migliorare la situazione, ma sta adesso iniziando tutta una serie di seminari sul territorio per incontrare gli imprenditori. Ne abbiamo già fatti alcuni, ne faremo proprio venerdì prossimo uno per dire a Reggio Emilia, poi continueremo con Milano, Udine e così via, perché vogliamo portare la conoscenza di questi servizi innovativi a livello di imprese, soprattutto quelle medio-piccole. Lei può immaginare per esempio cosa può essere importante per un sistema come quello italiano, costruito sulle piccole e medie imprese, la possibilità attraverso queste tecnologie di avere accesso ai mercati internazionali attraverso autostrade che non sono più oggi quelle di asfalto, o sono, diciamo, solo in parte quelle di asfalto, e che devono diventare assolutamente queste, diciamo, internetiane, che consentono rapidamente di entrare in collegamento con un mercato di consumatori mondiale.